Sono le ore 19 e 2 minuti di mercoledì 5 marzo 2024. Mi trovo alla stazione La Storta, sto cambiando treno. A volte le coincidenze non si perdono. E quale miglior luogo per parlare di appunto ferrovie, ma insomma, vorrei, anche per non renderlo troppo pesante, mi piacerebbe parlarne in termini quasi esoterici, perché la circostanza lo permette. E cioè parlare di tutto quello che non ha funzionato nel famoso nodo ferroviario di Roma. Noi a Roma invidiamo molto queste città come Berlino, che ha la S-Bahn circolare, che funziona meravigliosamente e, tra l'altro, non essendo nemmeno sotterranea, ti permette di guardare la città. Oppure ancora prima la Circle Line di Londra, che però insomma non è tutta rose e fiori, perché anche lì ti può capitare di rimanere fermo a Earls Court, aspettare un pertugio per far passare il tuo treno. Non so, magari la situazione è migliorata rispetto a quando ci ho vissuto io, però quella di Roma invece degli anelli ferroviari è una storia di grandi fallimenti. Il primo definitivo, cioè il primo tentativo di fare la ferrovia di circonvallazione, che risale agli anni 20, poi è diventata la Via Olimpica. Ecco, questa è una cosa che pochi romani sanno, che quando percorrono la Via Olimpica in realtà percorrono una ex sede ferroviaria, e ci sono delle tracce, si può anche provare a ricostruire, ci sono dei tratti, per esempio le gallerie sotto la Farnesina sono dei portali ferroviari, addirittura c'è l'anno di costruzione 1921, poi ci sono anche delle strade a Roma costruite per farci passare quella ferrovia, come via La Goletta, che è una strada molto strana in prati, perché è l'unica che passa in diagonale in un reticolo di quadrilateri, diciamo, e appunto serviva perché doveva passarci anche un binario da lì e fare il giro intorno a San Pietro. Ma insomma, sono storie affascinanti, e di queste tracce si possono vedere dei manufatti, no? Per esempio vicino a dove doveva sorgere la stazione Salaria, che forse non fu mai costruita, ci sono degli allacci elettrici antichissimi, se uno va a vedere. Roma è piena di questi posti un po' inspiegabili, addirittura dei viadotti dove passa però sopra, invece che il treno o una strada, passa una foresta. E ce n'è uno, per esempio, che sovrappassa la via Salaria nella zona di Prati Fiscali, diciamo nella zona tra Prato della Signora e Prati Fiscali. Se ci state attenti, c'è un viadotto inspiegabile. Voi siete sulla via Salaria e sopra di voi c'è una siepe e da lì passava un pezzo di questi anelli ferroviari mai entrati in funzione. Il fallimento definitivo è la prima di queste ferrovie, che diventa la Via Olimpica, diventata una sede stradale, diciamo, in ossequio alle Olimpiadi, alle macchine, alla motorizzazione, al boom economico, alla Fiat, che voleva che ogni romano acquistasse una macchina, poi sappiamo dopo successivamente anche due macchine, almeno nei quartieri abbastanza agiati, dove infatti la metropolitana non è mai stata costruita. E poi c'è il secondo anello ferroviario, quello che forse più romani conoscono, perché è quasi completato, ma è un fallimento temporaneo così lento che possiamo parlare di fallimento comunque in assoluto. Il famoso treno che si ferma a Vigna Clara, una delle opere abbandonate, le famose tre corse ai mondiali di calcio nel 90, poi questa apertura trafelata e abbastanza insensata degli ultimi anni, perché buffo, sui treni per Vigna Clara ci finiscono solo le vecchine che non capiscono che non è un treno per Viterbo, che non è un treno per Ottavia, e quindi poi c'è sempre qualcuno che deve andargli a spiegare che devono tornare indietro. E però anche questo secondo anello, che per tanto tempo è stato abbandonato, soprattutto la grande galleria sotto Monte Mario, ha i suoi segreti. Molti naturalmente sono anche delle leggende metropolitane, la più famosa delle quali è quella che riguarda il rapimento Moro, e cioè l'ipotesi che i rapitori siano riusciti a allontanarsi dal luogo dopo aver abbandonato le macchine a chi poi avrebbe portato l'ostaggio a via Montalcini e la Magliana. Però diciamo, il comando armato, quelli insomma con le divise dell'Alitalia, avrebbero fatto perdere le proprie tracce in questo tunnel ferroviario abbandonato, che sarebbe stato imboccato nella zona di Piazza Igea, di Via dei Massimi, di Via Trionfale, dove però non è che ci siano molti modi per arrivare al tunnel, perché il tunnel è sotto. È vero però che a Piazza Igea c'è un pozzo di ventilazione, ma mi sembra veramente una cosa un po' da Mission Impossible. Diciamo che chi ha costruito questa leggenda ha voluto inserirci degli elementi plausibili. Potete cercare qualcosa in rete, si trova. Anche perché pare che qualcuno, e anche questo chiaramente fa parte del mistero, della leggenda, abbia visto questi signori con la divisa dell'Alitalia, tra l'altro trasportando un ferito, uscire da un tunnel quello stesso giorno, il 16 marzo. Veramente. E nella zona, diciamo, in cui la galleria interseca via Cassia, e cioè nella zona del Parco Atleti Azzurri d'Italia, via del Podismo, per intenderci. Per chi conosce la zona ha capito di cosa sto parlando. Ma naturalmente è falso, cioè è falso, però è suggestivo. Cioè nel feticismo di tutti i misteri d'Italia c'è anche chi ha pensato di costruire questa fuga immaginaria in tunnel. Insomma, non siamo riusciti praticamente mai a farne un mezzo di trasporto pubblico, di questo treno circolare che dovrebbe dare anche a Roma la sua Circle Line, però siamo riusciti a scriverci un sacco di storie, un sacco di panzane. E non so se anche questo sia un servizio pubblico, non credo.